Terzo anello, ad alta voce, Madame Bovary di Gustave Flaubert. Un mercoledì, giorno di mercato a Yonville, Emma stava alla finestra. Vi si metteva spesso. La finestra in provincia rimpiazza il teatro e la passeggiata. E si divertiva a osservare la ressa degli zotici, quando scorse un signore in redingotto di velluto verde. Portava guanti gialli, sebbene calzasse grossi gambali. Si dirigeva verso la casa del medico, seguito da un contadino che camminava a testa bassa, rannuvolato. «Posso vedere il dottore?» chiese a Justin, che sulla soglia chiacchierava con Félicité. Evidentemente lo aveva preso per il domestico, perché aggiunse: «Ditegli che c'è il signor Rodolphe Boulanger de la Huchette». Non era tanto per vanità territoriale che il nuovo venuto aveva aggiunto al proprio nome la particella «de», quanto per farsi riconoscere meglio. La Huchette, infatti, era una proprietà nei pressi di Yonville, un castello e due fattorie che lui aveva da poco acquistati e che dirigeva personalmente senza darsene troppo pensiero. Viveva da scapolo, si diceva che avesse almeno 15.000 franchi di rendita. Charles entrò subito nella sala. Il signor Boulanger gli presentò il suo contadino, che voleva essere salassato perché si sentiva le formiche per tutto il corpo. Bovary cominciò dunque a prendere una benda e un catino e pregò Justin di tenerglieli. Poi si rivolse al contadino. «Non abbiate paura, mio eroe!» «No, no, dateci sotto!» replicò l'altro. E cercando di fare lo spavaldo, tese quel suo grosso braccio. Sotto la trafitta della lancetta il sangue schizzò sin sullo specchio. «Avvicina il catino!» ordinò Charles a Justin. «Guarda, è come una fontanella! Che sangue rosso c'ho! Buon segno, vero?» «A volte. All'inizio non si prova nulla, poi invece sopravviene la sincope, specialmente in individui di forte costituzione come questo qui», sentenziò il medico. A tali parole il contadino lasciò cadere quanto andava girando e rigirando tra le dita della mano libera. Il soprassalto delle sue spalle fece scricchiolare lo schienale della sedia. Non più trattenuto, il berretto era già a terra. «Non ne dubitavo», disse Bovary, applicando un dito sulla vena. Ma intanto il catino cominciava a tremare tra le mani di Justin. I ginocchi gli vacillarono. Era così pallido. «Moglie mia, moglie mia!» gridò Charles. Lei scese in fretta le scale. «L'aceto! Portami un poco d'aceto!» «Dio, ci si mettono in due alla volta!» E nella sua emozione faticava ad applicare la compressa. «Non è nulla», diceva con assoluta tranquillità il signor Boulanger, sostenendo Justin tra le braccia. Lo mise a sedere sulla tavola, con le spalle appoggiate alla parete. La signora Bovary versò un poco d'aceto nel suo fazzoletto di batista, gli bagnò le tempie a colpetti premurosi, vi soffiò sopra delicatamente. Il contadino si svegliò, ma lo svenimento di Justin durava ancora e le sue pupille sparivano nella loro sclerotica pallida come fiori turchini nel latte. «Bisognerebbe nascondergli il sangue», disse Charles. La signora Bovary prese il catino per metterlo sotto la tavola. Poi andò a prendere una caraffa d'acqua e vi stava facendo sciogliere delle zollette di zucchero quando sopravvenne il farmacista. La serva era corsa a chiamarlo durante il trambusto. Vedendo che il suo allievo aveva riaperto gli occhi, riprese fiato. Cominciò a girargli intorno, guardandolo dall'alto in basso. «Ah, stupido!» diceva. «Stupidissimo! Chi t'ha pregato di venire qui? Stai sempre tra i piedi del signore e della signora! Ci sono almeno 20 persone in questo momento in bottega e ho lasciato tutto per il bene che ti voglio. Allora su, fila, corri! Aspettami là e bada ai boccali!» Quando Justin, finito di riassettarsi, se ne fu andato, il signor Boulanger congedò il suo contadino, raccomandandogli di starsene tranquillo ora che s'era tolta la voglia del salasso. «Una voglia che m'ha procurato il piacere di far la vostra conoscenza», aggiunse. E guardava Emma dicendo questo. Poi depositò 3 franchi su un angolo della tavola, salutò distrattamente e se ne andò. «Com'è carina, però», si diceva lui. «Veramente carina la moglie del medico». bei denti, occhi neri, un piedino che è un incanto, una figura da parigina. Ma da dove vien fuori? Dove l'avrà trovata quel bue? Signor Rodolphe Boulanger de la Huchette aveva 34 anni. Era di temperamento brutale e di intelligenza fina. Ne conosceva di donne, se ne intendeva bene. Quella gli era proprio piaciuta e quindi ci pensava. Pensava anche al marito, ovviamente. Un vero bue. Lei ne deve essere più che stanca. Ha le unghie sporche, la barba di 3 giorni. Mentre lui trotterella dai suoi malati, lei cosa potrà fare oltre a rammendargli le calze? Si annoia, ne sono sicuro. Vorrebbe abitare in città, ballar la polca tutte le sere. Povero donnino, ha bisogno d'amore come una carpa ha bisogno d'acqua sul tavolo di cucina. Con 2 o 3 paroline dolci, quella lì ti adorerebbe, altro che... Sarebbe tutta una dolcezza, tutto un incanto. Già... E dopo? Come sbarazzarmene dopo? Allora, gli impicci amorosi intravisti in prospettiva lo fecero per contrasto pensare alla sua amante, un'attrice di Rouen che lui manteneva, un'immagine il cui solo apparire nel ricordo bastava a infastidirlo. Ah, la signora Bovary è molto più carina di lei, più fresca soprattutto. Virginie comincia proprio a essere troppo grassa. E rompe mica male le scatole con la sua allegria a tutti i costi, quanto poi alla sua mania dei granchiolini. La campagna era deserta. Rodolphe sentiva intorno solo il fruscio delle erbe frustate a colpi regolari dai suoi stivali e il trillare dei grilli lontano sotto l'avena. Continuava a rivedere Emma nella sala, vestita come l'aveva vista poco prima, e la svestiva. «Oh, l'avrò!» gridò schiacciando con il bastone una zolla lì davanti. E subito prese a esaminare il lato diplomatico dell'impresa. Si domandava: «Dove rincontrarsi? E come? Avremo sempre il marmocchio dietro, e la serva, e i vicini, e il marito, e tutta una serie di rotture di scatole di ogni genere. Ma c'è troppo tempo da perdere. Certo però che lei ha degli occhi. Degli occhi che ti penetrano il cuore come succhielli. Ed è così pallida. Io le adoro, le donne pallide, le adoro!» In cima al colle d'Argueil la decisione era presa. «Debbo soltanto cercare l'occasione. Bene, passerò da loro ogni tanto. Gli invierò un poco di selvaggina, qualche pollo. Se proprio occorre mi farò salassare anch'io. Diventeremo amici. Li inviterò a casa mia. Oh, corpo di Bacco! Ci saranno i comizi tra poco. Ecco l'occasione per rivederla. Cominceremo e con audacia. È sempre il mezzo più sicuro.» E arrivarono finalmente quei famosi comizi agricoli. La folla affluiva nella strada dai due capi estremi del paese. Altri traboccavano dai viottoli, dalle scorciatoie, dalle case, e si sentiva ogni tanto ricadere il martello delle porte dietro i borghesi che uscivano in guanti di filo per andare a vedere la festa. L'ammirazione generale andava particolarmente a due grandi grappoli di lampioncini fiancheggianti la tribuna su cui sarebbero salite le autorità. Ma il giubilo che illuminava tutte quelle facce pareva invece incupire quella della signora Lefrançois, lo stessa. Se ne stava lì sugli scalini della cucina e continuava a borbottare a se stessa. «Ma che stupidaggine! Che idiozia quella baracca di tela! Credono forse che il prefetto ci si troverà bene a mangiare sotto una tenda come un saltimbanco. E questo lo chiamano far gli interessi del paese. Valeva proprio la pena far venire apposta un bettoliere da Neuchâtel? E per chi, poi? Per questa manica di vaccari? Per questi pezzenti?» Passò il farmacista. Marsina nera, pantaloni di nanchino, stivaletti di castoro e, in via del tutto eccezionale, un cappello, un tubino. «Servo vostro!» disse. «Ma scusate, ho fretta!» «Oh, ecco sotto i portici del mercato la signora Bovary. Ha un cappello verde. E chi le dà il braccio?» «È il signor Boulanger, vero? Corro a porgerle i miei omaggi. Forse sarà contenta di avere un posto in tribuna sotto il peristilio.» S'allontanò a passi rapidi, con un sorriso sulle labbra e i garretti tesi, distribuendo a destra e a sinistra un'infinità di saluti e occupando un'enormità di spazio con le falde del suo vestito nero fluttuanti al vento dietro di lui. Rodolphe, che l'aveva scorto da lontano, aveva cominciato a camminare più in fretta, ma la signora Bovary ansava. Allora lui rallentò di nuovo e le disse brutalmente, sorridendo: «Era per evitare quello scocciatore, sapete, il farmacista?» Lei gli dette un colpetto con il gomito. «E questo cosa mi significa?» si domandò lui. E la guardò con la coda dell'occhio, sempre continuando a camminare. Ma il suo profilo era così quieto che era impossibile indovinare qualcosa. Si staccava in piena luce nell'ovale del cappello, ornato da certi nastri pallidi, simili a foglie di canna. I suoi occhi dalle lunghe ciglia erano fissi alla strada. La sua testa era un poco inclinata su una spalla. Tra le sue labbra balenava lo splendore perlaceo dei denti. «Mi sta per caso prendendo in giro?» pensava Rodolphe. E invece quel gesto di Emma aveva voluto essere soltanto un avvertimento, perché il signor Lheureux camminava accanto a loro e gli rivolgeva ogni tanto la parola per attaccare discorso, portando la mano al cappello, ripetendo «Permettete? Prego?» Quando furono davanti alla casa del fabbro ferraio, invece di continuare la strada sino alla barriera, Rodolphe girò bruscamente in un sentiero laterale, trascinandosi dietro la signora Bovary e dicendo forte: «Buonasera, signor Lheureux, al piacere di rivedervi!» «Come l'avete congedato?» protestò lei ridendo. «Ma perché lasciarsi soffocare dagli altri, dato che oggi ho la gran fortuna di trovarmi con voi?» Emma avvampò. Lui non terminò la sua frase. Passò a parlare del bel tempo, del piacere di camminare tra l'erba. Qua e là erano rispuntate le margherite. «Oh, le pratoline!» disse lui. «Ce ne sono abbastanza da servire da oracolo a tutte le innamorate del paese. Se ne cogliessi una anch'io, cosa ne pensate?» «Siete innamorato, allora?» disse lei con un colpetto di tosse di circostanza. «Chissà», replicò Rodolphe. Ma ormai la commissione cominciava il suo esame. Gli agricoltori entravano uno dopo l'altro in una specie di ippodromo formato da una lunga corda tesa intorno a certi pali. Le bestie erano là, con il muso girato verso la corda, una fila confusa di groppe inuguali. I maiali assopiti affondavano il grugno per terra, i vitelli muggivano, le pecore belavano, le vacche coricate piegavano una zampa per stendere il ventre e ruminavano piano. E intanto, tra le due file, incedevano solennemente certi signori che indugiavano a esaminare ogni bestia e a consultarsi a bassa voce. Uno di loro, quello che pareva il più autorevole, prendeva qualche appunto su un taccuino anche quando camminava. Era il presidente della giuria, il signor De Roseret de la Panville. Appena vide Rodolphe, si diresse vivacemente verso di lui e gli disse, sorridendo cortesemente: «Come, signor Boulanger, ci abbandonate?» Rodolphe protestò che lo avrebbe raggiunto immediatamente, ma quando il presidente gli ebbe girato le spalle, disse a Emma: «Sta fresco se mi aspetta. La vostra compagnia vale ben più di quella che può offrirmi lui». Allora parlarono della mediocrità provinciale, delle esistenze che vi venivano soffocate, delle illusioni che vi si perdevano. «È il caso mio», diceva Rodolphe. «Io annego nella tristezza». «Voi?» disse lei stupita. «Ma vi credevo così allegro». «Ah, sì, in apparenza, perché quando mi trovo tra la gente so mettermi sulla faccia una maschera ironica. Eppure quante volte alla vista di un cimitero al chiar di luna non mi sono domandato se non sarebbe meglio affrettarsi a raggiungere quelli che già vi dormono». «Oh, e i vostri amici? Non ci pensate?» «I miei amici? Quale amici? Ho forse amici io? Chi si prende pensiero per me?» E accompagnò queste ultime parole con una specie di sibilo tra le labbra strette. Finalmente, in fondo alla piazza, apparve un gran landò da nolo, che arrivò al piccolo trotto davanti al peristilio del municipio proprio nel momento in cui guardia nazionale e pompieri vi si allineavano, segnando il passo al rullar del tamburo. Nel presentatarm, i ferri, tintinnando a ondate, richiamarono l'idea di una caldaia di rame ruzzolante per le scale. Poi, finalmente, i fucili ricaddero a terra. Allora si vide scendere dalla carrozza un signore in marsina corta, a ricami d'argento, stempiato, con un ciuffo sull'occipite, di colorito smorto ed aspetto più che benevolo. Riconobbe il sindaco dalla sciarpa tricolore e allora lo informò che il signor prefetto non aveva potuto venire. Lui era solo un consigliere di prefettura, si presentò e aggiunse qualche altra scusa. Tuvache rispose con cortesie e complimenti vari. Hippolyte, il ragazzo dell'albergo, venne a prendere per le briglie i cavalli e, zoppicando sul suo piede deforme, li condusse sotto il portico del Leon d'Oro, ove i paesani si ammucchiarono a contemplare la carrozza. Il tamburo rullò, tuonò la bombarda. I signori salirono uno dietro l'altro in tribuna e si sedettero sulle poltrone di Utrecht rosso della signora Tuvache. Le signore di riguardo se ne stavano più indietro, tra le colonne, mentre la gente qualunque s'ammassava davanti, in piedi. Intanto Rodolphe era salito con la signora Bovary al primo piano del municipio, nella sala delle deliberazioni. Non c'era anima viva e lui dichiarò che quello era il posto ideale. Avrebbero potuto godersi lo spettacolo con la maggiore comodità. Si sedettero vicini. Sulla tribuna ferveva una grande agitazione. Tutti bisbigliavano, avevano da discutere. Alla fine l'inviato della prefettura si tirò su, riordinò certi suoi foglietti, se li sbatté quasi contro gli occhi per vedere meglio e attaccò. «Signori, mi sia permesso anzitutto riconoscere le grandi benemerenze dell'amministrazione centrale, del governo, del monarca, signori, del nostro sovrano, il quale regge con polso siffattamente saldo e saggio il carro dello Stato tra gli incessanti perigli d'un mare procelloso, sapendo far rispettare la pace, siccome la guerra, le industrie, i commerci, l'agricoltura e le belle arti». «Dovrei tirarmi un poco indietro», bisbigliò Rodolphe. «E perché mai?» disse Emma. «Perché potrebbero vedermi dal basso e così mi toccherebbe tirar fuori scuse per una quindicina di giorni e con la mia pessima reputazione». «Oh, vi state calunniando», disse Emma. «No, no, ve lo garantisco, non ne può esistere una peggiore. Del resto può darsi che dal loro punto di vista abbiano anche ragione a sparlare». «Ma cosa mi dite?» protestò lei. «Via, non sapete che ci sono anime continuamente tormentate? Di volta in volta provano la necessità del sogno e dell'azione, delle passioni più pure e dei godimenti più furiosi, sempre pronte a buttarsi allo sbaraglio in ogni specie di fantasie, di pazzie». Allora lei lo guardò come si può guardare un viaggiatore che ha attraversato paesi favolosi. Replicò: «Non abbiamo neppure simili distrazioni, noi povere donne». «Belle distrazioni! Non ci si trova mai la felicità». «Ma la si può trovare?» domandò lei. «Sì, la si può trovare un giorno. La si può trovare un giorno», ripeté Rodolphe. «Un giorno, e di colpo, quando ormai si disperava. Allora l'orizzonte si apre, è come se una voce gridasse: "Eccola!" E provi il bisogno di confidare a una persona l'intera tua esistenza, di darle tutto, sacrificarle tutto. Non ci si spiega, ci si intuisce, ci si è già visti nei sogni». E intanto la guardava. «Finalmente lo hai davanti, il tesoro tanto cercato. Risplende, scintilla. Eppure dubiti ancora, non osi crederci. Ne resti abbagliato come all'uscita dalle tenebre alla luce». Nel pronunciare queste ultime parole, Rodolphe aggiunse la mimica all'eloquio. Si passò la mano sulla faccia come in preda allo stordimento. Poi la lasciò cadere su quella di Emma. Lei ritrasse la propria.